Il tasso d'oro. Molto tempo fa, quando il mondo era ancora giovane, la gente si procurava cibo cacciando, pescando o raccogliendo frutta e bacche dagli alberi e dai cespugli. Non coltivavano perché la terra era troppo difficile da coltivare. E inoltre, credevano che ciò che la terra forniva fosse loro sufficiente. Quindi, quando arrivava l'inverno, i poveri umani soffrivano terribilmente la fame. Le fate della terra videro tutto questo e si rattristarono. Decisero di fare una riunione. Dobbiamo fare qualcosa per i poveri umani, altrimenti soffriranno ogni inverno. Perché non possono coltivare da soli? Meno lavoro per noi. Ti stai lamentando? Ho coltivato 3 alberi di mango solo perché un bambino ne voleva mangiare così tanti. E se invece trovassimo un modo per insegnare loro a coltivare da soli? Buona idea. Bene, troveremo un modo per farlo allora. Un giorno arrivò il compleanno di una delle fate, di Girasole. Compiva 16 anni e tutte le fate della terra dovevano celebrare. Le regalerò questo bellissimo vestito blu. L'ho fatto io, quindi ovviamente le starà benissimo. Bene, le regalerò una corona fatta solo con i fiori più belli. Quando guarderà se stessa nello specchio, si ricorderà sempre di me. Ah, ti ami troppo. Che mi dici di te, Robin? Che regalo le farai? Robin era la fata di tutti gli uccelli e gli animali del regno. Guardò i doni degli altri e si sentì un po' triste. Bene, non ho ancora niente, ma le darò qualcosa di altrettanto bello. Quella sera si sedette con la sua amica Eli l'elfo. Raccontò a Eli tutto dei bellissimi regali che le altre due fate avevano portato. Cosa ti piacerebbe darle? Vorrei darle qualcosa che la protegga e che stia al suo fianco. Oh! All'improvviso Robin mosse le mani e con tutta la sua magia creò un tasso. Oh, un tasso! Aspetta, rendiamolo più bello! Eli usò tutti i suoi poteri e fece diventare il tasso di color oro. Brillava e luccicava. E la magia di Eli aveva reso il tasso ancora più forte. Robin andò alla festa e diede il tasso d'oro a Girasole. Tutti furono così sorpresi nel vedere la meravigliosa creatura. Wow! Non ho mai visto un tasso così bello prima d'ora! Questo perché è speciale. Apposta per Girasole. Sarà il suo animale domestico e crescerà al suo fianco. Girasole chiamò il tasso Gullin, che significa adorato. Gullin era molto forte e veloce. Poteva correre per chilometri senza stancarsi e poteva scavare in profondità nel terreno con le sue piccole zampe. Ciao, Girasole. Ti stai godendo la giornata? Oh, ciao, signore. Fa così caldo che sento il bisogno di stare fuori. Qualcosa non va, Elder? Sembri un po' preoccupato. Oh, niente. Solo gli umani. Gli esseri umani? Veramente? Oh, dimmi, potrei aiutare? Beh, aiutami se puoi. E così le raccontò tutto. Dopodiché, Girasole pensò per un po'. E se inviassimo Gullin per insegnare alla gente? Sarebbe in grado di scavare e coltivare il duro terreno e rendere più facile per le persone coltivare i raccolti. Gullin? Sì, sarebbe un'ottima idea. Ma, mia cara, non ti mancherà terribilmente? Oh, certamente. Ma sarà via solo un giorno. Entro sera tornerà a casa, quindi va bene. Giusto, Gullin? Bene, allora. Lo manderemo alla gente domani. E così, il giorno dopo, Gullin camminò felice e curioso verso la gente. Tutti lo fissavano, perché non avevano mai visto un animale così bello prima. Che cos'è quella creatura? Non lo so, ma è davvero bella! Gullin andò velocemente in giro e improvvisamente iniziò a scavare nel terreno. Cosa sta facendo quello sciocco animale? È impazzito? Non so, ma sono curioso di vedere cosa fa. Gullin scavò con grande velocità e gioia. La terra iniziò a volare in aria, finendo anche sulla gente. Presto, il forte tasso aveva scavato un enorme pezzo di terra e, con l'arrivo della sera, Gullin alzò lo sguardo e presto se ne andò. Che cosa? Ha lasciato la terra in quel modo? Beh, questo era noioso e ci ha anche sporcati tutti. Lo so, vero? Ah. Al calar della notte, tutti si voltarono per andarsene. Il giorno seguente, la gente uscì di casa e vide Gullin che passeggiava sulla terra dolcemente scavata. Intorno a lui c'erano molti uccellini. Guarda, è tornato e sta giocando con gli uccellini. Cosa succederà adesso? E cosa trasportano quegli uccelli? Guarda, l'hanno lasciato cadere a terra. Oh, che divertente! La creatura divertente lo sta coprendo tutto con la sporcizia. Gullin aveva fatto venire gli uccellini per raccogliere tutti i semi e ora lui li stava piantando nel terreno. Uno degli uccelli lasciò cadere un seme vicino alla donna. È un seme! Possiamo arrostirlo e mangiarlo! Questi sciocchi uccelli stanno rovinando il nostro cibo! Beh, non possiamo fare davvero nulla! Lasciamo che gli uccelli facciano ciò che desiderano! Abbiamo molti semi da mangiare! Proprio allora cominciò a piovere. Gli uccelli volarono via e anche Gullin scomparve. Presto le persone entrarono nelle loro case. Dopo alcuni giorni, due donne stavano tornando a casa dalla raccolta di alcuni frutti. Ah, odio la pioggia! Soprattutto dopo che quella stupida creatura ha scavato il terreno, la terra è diventata ancora più viscosa e appiccicosa. Ah, non capisco perché lo abbia fatto. Ah, guarda qui! È una piccola pianta di pesco. Ah? Hai ragione. È proprio nello stesso posto in cui gli uccelli hanno lasciato cadere i semi. Ah, sta ricominciando a piovere. Andiamo. Tornarono di corsa a casa e lasciarono crescere la piccola pianta. Giorni dopo, tanti piccoli peschi erano cresciuti ed erano pieni di pesche dolci e mature. Wow! L'ha fatto il tasso? Sembra di sì. Quindi si possono coltivare alberi da questi semi? Sembra interessante, eh? Voglio provare. Le persone erano così affascinate che iniziarono a coltivare più alberi e piante sul terreno arato. Certo, alcuni di quei semi impiegarono più tempo a crescere, mentre altri non crebbero affatto. Ma le persone erano pazienti e presto impararono cosa fare. Abbiamo più frutti! Abbiamo più verdure! Per fortuna sappiamo come coltivare più piante! Grazie al cielo quell'animale ha arato per noi! Non vorrei fare quello! Sì! Ma non mi piace l'idea che quella piccola cosa sia migliore di noi. Voglio dire, non dovremmo essere in grado di scavare anche noi? No, con le nostre mani. Forse se usassimo una roccia o un bastone affilato, allora sì. Un animale non può essere migliore di noi. Esattamente. Il tasso è forte, ma non può cucinare e pulire come noi. Siamo intelligenti. Se riesce a scavare, possiamo farlo anche noi. Quindi la gente iniziò a scavare e arare il terreno. Non era facile. Quindi iniziarono a costruire strumenti per aiutarli a scavare la terra. Oh, questo è davvero difficile. Ah, la mia schiena! Non fermarti. Ricorda, se può farlo l'animale, possiamo farlo noi. Ma dopo aver iniziato a coltivare la terra, la gente divenne presto più forte e il lavoro diventò più facile per loro. Presto il tasso e la gente lavorarono fianco a fianco. Ehi, scavino, mi passeresti il piccone? Grazie! Un seme qui? Un seme qui? Oh, mi hai sorpreso, piccolo scavino! Scavino? Cos'è uno scavino? Dato che scava molto, lo abbiamo chiamato scavino! Ma dato che la gente aveva iniziato ad arare la terra e a coltivare da sola, il dolce Gullin visitava sempre meno gli umani e presto smise completamente di andare. Nel corso degli anni, le persone che lo conoscevano invecchiarono e si dimenticarono di lui. Oh, mamma, questo è così difficile! Voglio andare a giocare! È stato difficile anche per noi, ma uno strano e bellissimo animale venne ad aiutarci. Oh sì, me ne ero dimenticato completamente. Come si chiamava? Scavetto? Scavino? Esatto, Scavino era un bellissimo animale che ha scavato con noi e ci ha insegnato a coltivare. Un animale vi ha insegnato a coltivare piante? È troppo strano, non credi? E dove è andato l'animale? Non lo so, è solo scomparso. Non ci credo. Beh, ora che ci penso, è stato davvero qualcosa di simile alla magia. Non devi crederci, però. Un animale che ci insegna a coltivare. È troppo divertente. Devo andare a dirlo ai miei amici. In questo modo, quella di Gullin divenne presto una storia raccontata in tutto il mondo e i bambini l'adorarono.